Il povero Martino. 4 luglio. Il dottor G non viene più. Invece vengono due altre figure con indicibile frastuono. Esse non sono riconoscibili. 7 luglio. Mi venne incontro un uomo sulla scala. Credendo che fosse un mendicante, gli dissi: aspetti, le porto subito qualche cosa. Allora mi passò vicino tutto scuro e si disciolse in una nube. Era così naturale che non mi passò nemmeno per la mente che potesse essere uno spettro. Addio, ho visto per 7 volte la dama, si chiama Isabella, di più non le potei chiedere perché non ero sola. 9 luglio. Svegliata da un enorme frastuono, per un po' la mia stanza era come una fiamma. Non ho visto niente, solo oltre il rumore ho sentito come un chiamare da lontano. Sentire è molto più brutto che vedere, uno si trova in un'angoscia tremenda di ciò che gli potrà accadere. Devo confessare che i miei nervi sono talmente tesi, che quasi non riesco più a dormire. 11 luglio. L'uomo della scala mi venne incontro all'oratorio, aprì in maniera del tutto normale la porta. Io mi sono tanto spaventata, però rimase quieto in ginocchio. Prima stette in piedi vicino a me, poi si inginocchiò. Non potei resistere a lungo, e così uscii, ed egli mi seguì. Gli domandai: che cosa vuoi da me? Lui: amore. Io: te lo darò se mi dici chi sei. Lui: tu mi hai aiutato quando ero vivo. Guardami. Io non ti conosco, solo la giacca, te la ho donata io? Lui: sì. Io: sei vissuto qui? Lui: no. Io: e allora come viene qui? Lui: perché tu mi devi aiutare. Io: perché dovere? Nessuno può costringermi. Lui: l'amore. Io: sì, ma allora dimmi il tuo nome. Lui: il povero Martino. E disparve, non ho la minima idea chi possa essere. Ha un aspetto molto dimesso, un uomo piuttosto anziano con una grande barba, per il resto dei tutto come un mendicante. Si faceva notare per via della giacca. Come può essere una cosa simile? Io ricordo ancora benissimo che stavo ricamando e leggevo Sven Hedin. Fui per 15 giorni a Monaco, ma la cosa lì era insopportabile. Dapprima solo rumore, poi 5 giorni dopo una paurosa figura di uomo, che rimase per delle ore in piedi davanti a me, che io non conosco, e faceva dei gesti supplichevoli. Ho pregato molto con lui, ma egli non vi prendeva parte per niente. Solo una volta egli mise la sua mano sul mio capo. Oh! Questa mano! Fu una cosa spaventosa. Alla domanda chi fosse, rispose: anima, un'anima. Non riuscii a fargli dire altro. Vidi anche una donna in un negozio accanto al venditore. Quando io domandai qualche cosa, l'uomo mi guardò del tutto sorpreso e lei disparve. Quando andai in clinica da mia sorella, incontrai due donne sul corridoio, con un'espressione così piena di tristezza, che dovetti chiedere loro come stavano, tanto mi fecero pena. Dalla faccia di una suora della misericordia, notai che mi tenne per pazza e difatti lì non c'era più nessuno. Appena tornata Val vidi il povero Martino, mi venne incontro in giardino. Gli chiesi: ti accorgi che prego per te? Lui: sì, ma dammi ancora di più. Io: ti ringrazio, perché non vieni di notte. Lui: gli altri non mi permettono. Io: chi gli altri? Lui: quelli che ti sono vicini. Io: sono molti? Sono quelli che fanno quel terribile frastuono? Lui: sì. Io: perché non li posso ancora vedere? Lui: essi non ne sono ancora capaci. Io: quando avviene questo? Lui: in una sfera superiore. Io: tu sei già in quella? Lui: Io sono nello spazio intermedio. Io, potete venire da me solo dallo spazio intermedio? Lui, non tutti possono trovare la strada. Io, ma dimmi, che cosa è questa strada che vi porta da me? Lui, faticosa, ma tu ci attiri. Io, dove sei sepolto? Lui, Erlangen. Poi disparve. Se io non abbandono con lo sguardo le figure esse partecipano di più, mi pare. Spesso il fracasso di notte è intollerabile, e poi io devo ancora vedere tutta quella roba. Adesso ho visto 16 volte Isabella. Io, da dove vieni? Lei, dal tormento. Io, eri una mia parente? Lei, no. Io, quando sei morta? Lei, 1846. Io, dove sei sepolta? Lei, a Parigi. Io, perché non riesci a trovar pace? Lei, io non ho mai pensato alla mia anima. Io, come ti posso aiutare? Lei, una santa messa. Io, non avevi più altri parenti? Lei, essi hanno perduto la fede. Io, sei sempre stata qui al castello in tutto questo tempo? Lei, no. Io, e perché adesso? Lei, perché ci sei tu? Io, ma quando eri viva sei stata qui parecchio? Lei, sì. Io ero l'amica di molti. Essa è impeccabile, compitissima. Ora ancora una cosa, che mi inquieta parecchio, la mia stanza fu ancora assai volte piena di fiamme, anche di giorno. 11 agosto. Secondo povero Martino venne di nuovo da me in giardino. Io, che cosa vuoi di nuovo? Io faccio quello che posso per te. Lui, tu potresti fare anche di più, ma tu pensi troppo a te stessa. Io, tu non mi dici niente di nuovo, purtroppo. Dimmi anche altro, se vedi qualche cosa di cattivo in me. Lui, tu preghi troppo poco e perdi forza andando in giro con la gente. Io, lo so, ma non posso vivere solo per voi. Che cosa vedi ancora in me, forse peccati per i quali tu devi patire? Lui, no. Altrimenti non mi potresti vedere né aiutare. Io, dimmi ancora di più. Lui, ricordati che io sono soltanto anima. Mi guardò allora con tanta amabilità, che mi riempì proprio di gioia. Ma io avrei voluto sapere ancora di più da lui. Se io potessi dedicarmi solo alle povere anime, sarebbe una gran bella cosa, ma gli uomini,